Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Hamburger, dici? La colonna portante di ogni colazione vitaminica. La Lega è un movimento di liberazione del nord contro il centralismo italiano e romano, e non può andare a sud. Penso e spero che tutti stiano dentro. Il popolo della Lega ha parlato, dal Veneto alla Lombardia al Piemonte si è espresso chiaramente, quindi penso che tutti ne prendano atto. La battaglia non può essere più solo nel nostro orticello. Io non ho risposto, mi sono cucito la bocca facendo yoga per 15 giorni a ogni genere di insulto e di infamia. Il popolo ieri ha votato, ha scelto, e quando sceglie il popolo si rispetta. Se qualcuno non è d'accordo, il mondo è grande. Con le primarie del PD ci hanno massacrato le palle per 3 mesi e quelli facevano pure pagare 2 euro a testa. Le primarie della Lega hanno meritato forse un giorno di attenzione. Ecco, vergogna al sistema giornalistico italiano, delle radio, dei giornali e delle televisioni. Ma come, Matteo, anche noi? Le radio, no, anche noi di Radio 24 ti vogliamo tanto bene, spesso ti chiamiamo, Matteo. Un deficiente totale, Alessandro Milan. Milan, però vabbè, dai, Sammy Varin di Radio Padania, io ti voglio bene comunque, non userò le tue stesse armi, io uso l'arma dell'abbraccio contenitivo come una camicia di forza che ti viene stretto, stretto, stretto, ti dà tanto affetto. Non da paese civile. Signori, nella Lega si sbranano, ho letto questo titolo, lo psicodramma leghista, dovremmo affrontare anche questo, guarda, titolo di libro, nella Lega si sbranano. Preoccupante. Insomma, sono cose che, caro Presidente, insomma, la gente... Sono cose veramente da quarto mondo. No, non intendevo quello, intendevo proprio il contrario, sono cose che riguardano la vita politica quotidiana. Sei un po' aggressivo oggi, Presidente De Luca, eh? Se vuoi condurre qua nella versione 4.0 di 24 mattino in futuro devi stare un po' più tranquillo, eh? 13.000 euro netti al mese. Vabbè, ci stiamo lavorando. Oggi iniziamo con David Bowie, che bello, con il Duca Bianco. E poi iniziamo con Peter Bescapè, che è tornato l'alpino dalla tua. Eccolo lì. Come dire, è tornato tutto a posto? Hai provato a camminare sulla striscia dritta, su come fanno in America? Cammini dritto con... toccandosi la punta del naso, chiudendo gli occhi, tutto a posto. Signori, a Bratto, Bergamo, ci sono 9 gradi. Ma com'è che lo schermo mi si è oscurato? Ci vuole la luminosità. Lorenzo Nespoli, vieni dentro a controllarmi la luminosità dello schermo, grazie. In tangenziale est a Milano, 15 gradi. Sole a Rimini, mare 17 gradi. Grazie Lorenzo, vedi un attimo se riesci. No, così si tirano su e giù i messaggi. Vabbè, niente, sei inutile, licenziamolo pure. A 13 gradi, è uscito mestamente dallo studio senza essere riuscito a portare a compimento questa facile operazione, e quindi verrai licenziato alle ore 9:05, appena finita la trasmissione. Vedi, di non lasciarci qui a piedi. Ovviamente sto scherzando, signori. Ad Annone Brianza 13 gradi. Va bene, dai vicino, facci una cortesia, levete, vattene, fai una scampagnata, vattene in Seneca, ma se posso sapere che vuoi. Vincino, vattene in Senegal. Perché in Senegal? Questo ascoltatore ti vuol mandare in Senegal, Vincino. Io sono felice, guarda. Tu non vedevi l'ora di andare in Senegal. Sei mai stato in Senegal? Senegal no. No, vai. No. Vabbè, però più entusiasmo, Vincenzo. Ti vuol mandare in Senegal, un po' più di entusiasmo per questo ascoltatore. È il suo modo di volerti bene, insomma, che devi fare. Come stai, Vincenzo? Sei svenuto. No, bene, assolutamente. Abbastanza bene. Oggi l'entusiasmo è difficile risveglio la mattina. Ah, è un difficile risveglio, infatti. Abbiamo svegliato? No, ma insomma... Vuoi tornare a dormire? Ma di cosa ci vuoi dire? Non lo so, Vincenzo. Cosa ci vuoi dire? Vinci? È tutto difficile. È tutto, difficile. La vita è dura. Allora, Lorenza ci fa sapere in questo momento che da Jeddah, sai dov'è Jeddah? Ci sta ascoltando da Jeddah. Sì. In Arabia Saudita, 34 gradi ci sono. Va bene, salutiamo il quasi omonimo insieme a Vincino, se si sveglia. Carlo Rienzi, presidente del Codacons. E qua la temperatura cresce. Cresce. Carlo Rienzi a quest'ora si è già svegliato, ha già fatto due querele. Già sveglio, due querele, ho letto il Corriere della Sera, ho letto di un giovanotto di 18 anni che prende tutti e 8 a scuola, che a Treviglio ha bloccato la proiezione del film Waxed, quello che dice antivaccino, e ha avuto i complimenti del ministro. Adesso gli scriviamo per chiedere se lo ha visto il film. Ho capito, ma ha fatto bene, no? Ha fatto bene. Crede a tutto quello che legge sui giornali. Non è un film contro i vaccini. Ma dai, ma l'ha fatto quel medico che è stato radiato, Wakefield. Ma l'importante è chi lo ha fatto. Ma come chi l'ha fatto? È stato radiato. Il film denuncia una frode negli Stati Uniti con documenti filmati del Congresso americano. Questo ragazzo, non dico che insomma dovrebbe avere non 8 ma 4 le materie principali, ma almeno dovrebbe vedere quello che vuole bloccare, perché la conoscenza, possibile che in Italia nessuno possa insegnare a questi ragazzi che la conoscenza è la base poi della critica e dell'accettazione. Ma ho capito, ma l'ha fatto quello che il medico che ha detto che c'è una correlazione tra autismo e vaccini, e per questa cosa è stato radiato. Perché non è stato radiato è stato radiato ed è stato con un altro che poi ha fatto ricorso e ha vinto ed è stato reinserito. Lui non aveva i soldi per farlo. Si continua a parlare di chi fa le cose, quello che conta è cosa c'è nelle cose, soprattutto per i giovani. Ma possibile che insegniamo una pagina del Corriere della Sera, direttore del Corriere della Sera, una pagina per dire che un ragazzo che non dice nemmeno se ha visto o no quello che c'è in questo film, che noi abbiamo Codacons in Italia, adesso glielo mandiamo per farglielo vedere, se almeno dica l'ho visto e non mi piace perché parla contro i vaccini. Almeno questo, io non sto facendo una questione non sui vaccini, ma sulla conoscenza, sulla capacità critica, sul fatto che si dia una pagina a un ragazzo che prende tutti 8. Ma io sto con lui, ha fatto bene a bloccare. Vabbè, stai con lui. ti mando una cosa. Bandami del film, Max, se mi prometti Max che la vedi. Ma io un po' l'ho vista su YouTube. No, un po' non va bene. L'hai vista su YouTube, e che cosa hai trovato contro i vaccini? Ma no, ma chi contro i vaccini? Non c'è nulla. Ma chi contro i vaccini? Ma no, ma come non c'è nulla? Ma dai, ma non sono c'è nulla contro i vaccini. Si denuncia una frode, quello di mettere insieme più vaccini per guadagnare di più per le case farmaceutiche. Quella Eccola. Per cui De Lorenzo, ministro della salute, prese 600 milioni di mazzetta da una casa farmaceutica. Eccola. Vabbè, dai, apriamo il Parlamento. Apriamo il Parlamento. Oggi, ragazzi, dopo lo leggo in rassegna stampa di questo, ragazzi. Così, io vi voglio bene. Forza, allora, signori, si è scoperto che facciamo i soldi sui migranti. Ma dai, che la 'ndrangheta fa i soldi sui migranti. Ma dai. Che manca capitale, allora. Mannaggia. Vincino, hai capito? Altro che ti mandiamo in Senegal. Ti mandiamo a Isola Capo Rizzuto. Preferisco il Senegal. Preferisco il Senegal. Come preferisci il Senegal? Dai. Ma hai visto che l'andrangheta faceva soldi a 35? Ma è chiaro, normale, insomma. Non è che... Cioè, è logico. Ma com'è logico? Cioè... Ma certamente, scusa. Vabbè, ho capito, è logico, ma non è che ci sta. Vincino sta ancora dormendo, sta... non ho stato no, no. Ma non è che è logico, ma ci sta bene questa cosa. Tra l'altro, no, c'è anche. Ci sta bene, ci sta malissimo che il fenomeno che deve essere ultra controllato non è controllato per nulla. Va bene, e quindi abbiamo in Veneto quelli là che venivano. Cioè, in tutta Italia fanno le cose peggiori sulle spalle di questi poveretti, dai. Fanno le cose peggiori sulle spalle di questi poveretti. Tra l'altro c'è anche, ragazzi, c'è anche il particolare piccante lanciato dal Corriere della Sera. È stato arrestato un imprenditore, e anche qui devo dire, adesso, prima hanno inchiodato Alfano per una foto con questo imprenditore, oggi c'è la foto di questo imprenditore a pagina 3 del Corriere con tutti, con Alfano, con Renzi, con Berlusconi, con Salvini. Era bipartisan, era il titolare, insomma, responsabile di questo centro, e quindi quando arrivavano i politici incontrava tutti, stretta di mano e foto. Però è stato arrestato anche un prete, il parroco lì, e sapete qual è il particolare piccante? Secondo un pentito, il prete arrestato e l'imprenditore sono padre e figlio. Cioè, nel senso, il padre è il prete, l'imprenditore e sarebbe il prete, e l'imprenditore possiamo fare una fiction. E l'imprenditore sarebbe il figlio, cioè padre biologico, il prete. Questo almeno dice un pentito. È per questo che c'era questa unione nel lavorare insieme. Però Renzi qui si è detto tante volte, alla fine poi è un business. Questa è la verità. Business sporco in alcuni casi, no? Ma il problema è che tutto quello dove girano soldi, tanti soldi, diventa un business per la malavita, perché mancano i controlli. Io continuo a sostenere questa tesi. Il nostro paese ha iniziato a eliminare gli ispettori delle ASL che andavano a controllare gli ospedali, se c'erano le file, se c'era pulizia, eccetera, perché i sindacati hanno imposto questa eliminazione. Poi ha eliminato tutti gli altri tipi di controlli. Voi, per esempio, a Roma, vedete i vigili urbani per strada? Io non li vedo più, tranne quando c'è un incidente. Sto a Milano, ieri ho preso la multa. La multa ogni tanto si deve pure prendere. Infatti non dico niente, era un divieto di sosta, cioè, però quindi ci sono a Milano, ecco. No, ma qui ci sono tutti in divieto, migliaia di macchine in divieto sui marciapiedi, ecco. E nessuno che gli fa la multa. A Milano sì. Ma ha detto da Roma in su, lo sappiamo che le cose sono un po' diverse. A Milano la fanno. Ma da Roma in giù no. A Milano fanno bene, però vivete meglio, avete meno inquinamento, respirate di più. Sì, viviamo meglio. Oggi pensi come vivo meglio, pensa come vivo meglio, Carlo, quando entro dal tabaccaio a pagare la multa. Vivo benissimo, benissimo. Ma questo è egoismo, io lo capisco che non è piacevole pagare la multa. Lo so, oggi... giusto. Questo diventa molto egoistico. Mi hai dato una bella lezione. Male perché mi sono soffocato da migliaia, decine di migliaia di macchine in più di quelle che la mia città può reggere. Giusto, mi hai dato una bella lezione. Questo è egoismo. Vado felice e altruista a pagare la mia multa da 20. Attività è anche osservare le regole. Oggi entro al tabaccaio e dico: ah, Che bella giornata, sono voglio felice. Pagare questi 28,90 euro. Oh, poi aggiungi 10 euro sì? E per la fai, prossima. Compra un no, fai un gioco all'otto, che è l'unico gioco che meno d'azzardo e meno fa male alla salute. Ma come? Ma se tu sei contro tutti io sono euro. Contro, allora. Ma 10 euro all'otto sui numeri della bolletta della multa. Sì? Potrebbe essere interessante. Vabbè. Vincino, quando hai preso l'ultima multa tu, Vincino, che giri in motorino, sei pericolosissimo. Una volta sono andato con Vincino in giro per Roma e dietro. È una roba, un'esperienza. Ho chiuso col motorino. Un'esperienza mistica. Hai chiuso col motorino? Perché? Perché ho sbattuto. Ho detto basta. No? Basta, basta. Ecco. Ieri ho pagato 400 euro. Come ieri 400 euro? Perché ha sbattuto, insomma, i vigili hanno preso la moto, l'hanno portata al deposito e poi là per riscattarla, insomma, tutto un disastro. Vabbè, insomma, no, il rapporto con lo Stato, ti tocca pagare ogni tanto. Va bene, dai, andiamo un attimo al traffico, che poi vediamo anche qualche questione politica. Guarda qua oggi su Libero, multe ai genitori no vaccino. Il ministro Fedeli ora si schiera con la collega Lorenzin. Brava, brava. Brava, Rienzi, tutto a posto? Brava, ministro Fedeli. Sono molto attive. Sono molto attive. Brava, brava, brava. Multe ai no vaccino, tra poco. Mamma mia, non ce la faccio più, non ce la faccio più. E datemi questo benedetto traffico. Faircam Air and Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta... Alessandro Milan, da San Pellegrino Terme, 11 gradi, sereno. Servizio militare, grande esperienza di vita, serviva a maturare, a trasformare gli adolescenti in uomini. Tutte queste mezze seghe di ventenni di oggi, 2 anni di servizio militare duro, così maturano e diventano un po' grandi. Ciao Alino, spero che torni in servizio militare, così almeno vediamo un po' se Matteo Renzi e i suoi amici tipo Orfini sono capaci di fare qualcosa, tipo pulire i cessi con gli spazzolini da denti. A venire in campagna. È vero, stiamo sì. Lavorando per invitare Macron, siamo già pronti ad accoglierli con tutti gli onori. Eh beh, certo, immagino, da tipo... Baitor. Bello, bello. Carrozza d'oro. Addirittura. Trainata da Di Maio. No, ma perché? Ma cosa c'entra adesso Di Maio? In modo da conferire un perché. No. All'esistenza di quella bestia da soma. No, ma perché? Non sia ingiusto. Questo è Crozza, questo è Crozza, prima che qualcuno abbia dei dubbi. Allora, signori, il servizio militare, ma questa buttata del servizio militare, dai, ma lo sa anche l'Alpino che l'ha detto la Pinotti perché stava la durata degli Alpini e quindi doveva dire una cosa, ovviamente, che era sentita lì dal popolo degli Alpini, tra l'altro voleva il servizio non militare ma il servizio civile, no? Il servizio civile, la Pinotti, chiedetelo a Vincino che quanto si è fatto di carcere. Io ho fatto 1 anno e mezzo di servizio militare, va bene. 1 anno e mezzo, perché? 2 anni, non lo so, un periodo immane, lunghissimo, no, mi sono divertito un sacco, d'accordo, però cioè, io farei un'insurrezione se fossi un ragazzino, mi dovevo obbligare a fare il servizio mio. Un'insurrezione, ma c'è tanto da morire, dai, no. Ma è il servizio civile questo, il servizio civile li vuole. Vabbè, ma un anno, qualsiasi cosa obbligatorio, no. Mai. No, basta. Basta, fatevelo dire da un anarchico che ha lottato per le libertà. Cioè, anarchia. Ha ragione Renzi. Mandate gli ispettori di nuovo dappertutto, mandatevi giù urbani, no? Ma perché sti pure le ragazzine che così devono essere obbligati, intuppati? Insurrezione contro l'obbligo. Caro Rienzi, invece, ma l'hai fatto il militare, Rienzi? Volevo dire 2 cose su questa cosa. Sì. Uno è che il professor Iacono, valente urologo, in un'intervista a Quella Cosa TV, dice prima i giovani non avevano problemi sessuali perché li trovavano alla visita militare. Adesso mi arrivano a 30, 40 anni con... problemi allo scroto, all'elezione, eccetera, perché non hanno fatto la visita militare. Questa era una cosa utilissima, questa visita, cioè, stupendo, la visita, poi, la visita per trovare i problemi allo scroto. Poi il servizio civile obbligatorio è una cosa sacrosanta. C'è stato uno del PD che ieri, mi pare, un deputato, ha detto: ma ci costerebbe 2 miliardi. Ma non si rende conto che utilizzare questi giovani, non solo dandogli un po' di soldi, dandogli delle regole, ma per pulire i giardini, accompagnare gli anziani. Ma sai cos'è che non piace a Vincino? Questa idea dell'obbligatorietà per un anarchi come lui? Ho capito, ma qui non è più niente obbligatorio. Cioè, praticamente siamo in una giungla. Hai visto quelli che hanno dato l'ombrellata a quel poverello? Ma che c'entra adesso l'ombrellata a quel poveretto? Ma perché aveva detto a quello di non andare sulla motocicletta, su una sola ruota, che era pericoloso. Ma vi rendete conto a che cosa siamo arrivati? Ho capito, pare possibile. Ma che c'entra? Allora, poi è obbligatorio i vaccini, sì, ma il servizio militare, il servizio civile no. Ma non è peggio sacrificare il diritto all'istruzione rispetto al dare delle regole ai giovani? Vabbè, che ti devo dire, Vincino, devi tornare a fare il servizio civile. Ragazzino di 20 anni, no? Di 21 anni, sì. Ma perché qualcuno, lo Stato, deve essere proprietario del mio tempo? Io voglio diventare, non so, un grandissimo incinatore di sabbia, perché basta. Perché non lo fai? Se fai un anno di servizio civile non puoi diventare un disegnatore di satira. No, perché là sono sotto a questo lampinotti, ho capito. Stupidaggini pazzesche, madonna mia, io sono contro questo Stato. Basta, è contro lo Stato, è contro lo Stato, l'anarchia, lo Stato puro. Signori, invece non abbiamo parlato di questa cosa dei valori. Oggi, se aprite i giornali, troverete delle foto un po' bizzarre, delle foto un po' strane, tutte di persone colorate, un po' barbute, con vestiti in genere arancioni e lunghi pugnali. Sono i Sikh, state attenti, sono i Sikh. Non mangiano, non vi sbranano, non fatevi impaurire dai Sikh, caro Rienzi, no? Se ci vedi delle foto un po' strane oggi sui giornali, sono i Sikh. C'è questa sentenza della Cassazione per cui uno che girava col pugnale Sikh lungo non so quanti centimetri non può farlo perché deve conformarsi ai nostri valori. Ma questo è giusto, dai. Ma ragazzi, ma secondo me è impressionante che la Cassazione si debba occupare di uno che porta il pugnale Sikh. Ma se non se ne occupano gli altri organi dello Stato. Ma ragazzi, siamo... Poi chissà che cosa, dunque, vediamo un po', qui c'è prima pagina, il Corriere della Sera. E come no? Dico, come nasce questo processo? E che ne so, che è stato fermato con un pugnale Sikh. Per un reato, perché portava un coltello superiore alle misure obbligatorie. Esatto, e si è rifiutato dicendo: questo è il coltello della mia religione. E quindi ha fatto ricorso in Cassazione. E ci sono tutti i giornali oggi che propongono delle foto bizzarre di gente colorata con i pugnali Sikh che girano pericolosamente per le nostre città. Però è giusto che ci sia adeguito quando si va in un paese un po' alle usanze, alla cultura, no? Come noi quando andiamo, non so, in un paese arabo, le nostre donne non è che possono andare in bikini o in topless, non perché capito, ma quello, peccato. Ma quello, cioè, è conformarsi ai valori, ma quello col pugnale, cioè, non è che... E quindi, infatti, è giusto che lui non vada col pugnale da noi quando il pugnale è vietato. Ma infatti, banale, cioè, non è che c'entra Sikh o non Sikh, c'è un pugnale di 20 centimetri è pericoloso. Vabbè, caro Vincino, stai mettendo via tutte le monetine da un centesimo, due centesimi? Io credo quello, ha trovato un avvocato come il nostro Rienzi, e via, è andato fino in Cassazione. Vabbè. Se no, scusa, un Sikh che se ne va in Cassazione, ma dove lo vedi? Ma chissà come si è presentato il Sikh in Cassazione. Si è presentato sfoderando un pugnalone, mettendolo lì sul tavolo. Avanti, voglio tenere il pugnalone. No, credo che sia stato sequestrato. Dai, si fa anche un po' di ironia, ovviamente. Ma io vi devo salutare, caro Vincino e caro avvocato Rienzi, presidente del Codacons. Ci sentiamo alla prossima. Anquo Alessandro Mina e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanki, skate. 24 mattino. Sono le 7:18 minuti, signori, questo è il momento in cui leggiamo i giornali, come avete capito, ci danno anche i soldi, io poi a profusione li elargisco al nostro Peter Bescapè in regia, a Lorenzo Nespoli in redazione, a Elisabetta Fusconi, così pioggia di denaro, tutti loro, monetine da un euro e due, da uno e due centesimi, tanto quelle che adesso praticamente forse non varranno più dall'anno prossimo. A profusione. E allora siamo alla rassegna stampa, lo avete capito, di 24 mattino. È tornato, avete capito anche questo, il nostro alpino Peter Bescapè è abbastanza in forma. Tira via un attimo la grolla che hai sul mixer, che se si rovescia poi è un casino, e partiamo. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo a martedì 16 maggio, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore economica, Atlantia 16 miliardi per Abertis, è il consiglio di amministrazione di Atlantia che ha lanciato l'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sul 100% della spagnola Abertis, e questa è l'apertura finanziaria economica del Sole 24 Ore. Poi la questione dei migranti, intanto con la sentenza della Cassazione, migranti, sentenza sui doveri, la Cassazione, gli stranieri hanno l'obbligo di conformarsi ai nostri valori, è il titolo del Corriere della Sera, così Repubblica, la Cassazione sui migranti, si conformino ai nostri valori, e il Messaggero, i migranti seguano i nostri valori. E questa pronuncia che vedremo riguardo a un cittadino di religione Sikh, che pretendeva di girare con il coltello tipico della sua cultura, della sua religione. E poi la questione migranti con lo sfruttamento, l'andrangheta che si è infiltrata nel centro di Isola Capo Rizzuto e faceva i propri comodi. La Stampa, i fondi dei migranti dirottati in Svizzera dall'andrangheta. Per il Giornale, dai frutta marcia ai negri. Scoppia Profugopoli, ovviamente questa che ho letto è un'intercettazione delle più brutte, delle più spietate per questa inchiesta. Avvenire, le mani delle mafie, il CARA di Crotone dominato dall'andrangheta. Per il Giorno, migranti, affari sporchi. La Verità titola a caratteri cubitali, tutto vero, l'invasione è un affare, soldi in nero. Per l'Unità, senza misericordia, era il nome del centro o di chi gestiva il centro, il manifesto, derubati di tutto, c'è la foto di un migrante. Attenzione al titolo invece dell'apertura di Libero, perché tra poco lo vedremo per quel che riguarda la politica. La telefonata nel caso Consip. Renzi giura il Fatto Quotidiano, intercettato mentre parla con il padre. Non dire bugie, hai visto Romeo una o più volte? Questa è un'intercettazione nel libro di Marco Lillo, Di padre in figlio, intercettazione del 2 marzo del 2017. E poi la vedremo. Allora, iniziamo proprio da questa terribile storia con l'andrangheta che si è infiltrata nel CARA di Isola Capo Rizzuto. Il più grande d'Europa, per 10 anni sarebbe stato in mano alla criminalità organizzata. Verrebbe da dire, per questi 10 anni che è successo? Perché si è dormito? Intanto gli arresti di ieri. Nel crotonese 68 arresti. Ci sono anche le polemiche che prima hanno coinvolto il ministro degli esteri Alfano. E poi in realtà perché? Perché questo imprenditore fermato, Leonardo Sacco, è stato ripreso in una foto col ministro Alfano. Poi in realtà, se uno va a vedere il Corriere della Sera oggi a pagina 5, c'è una foto di Leonardo Sacco che gestiva da imprenditore questo centro con Alfano. C'è una foto con Renzi, c'è una foto con Berlusconi, c'è una foto con Salvini, quindi diciamo bipartisan. Ma d'altronde la polemica delle foto è una polemica abbastanza ridicola. Si sa che un politico, quando va in giro, che ne so, va al centro di Crotone, di Isola Capo Rizzuto, viene accolto da chi gestisce il centro e c'è chi fa le foto. Sembra una roba talmente banale, ma in un paese impazzito, cioè, anche una foto può buttarti nel calderone delle polemiche. E infatti Alfano si difende così: è assurdo coinvolgermi, non so neanche chi sia. Comunque, Carlo Macri, pagina 5 del Corriere. Ogni giorno al centro di accoglienza richiedente asilo di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto solo 500 profughi su 1000 ospitati riuscivano a mangiare. Il resto rimaneva a digiuno perché il cibo non bastava. Come rivela il procuratore distrettuale di Catanzaro Nicola Gratteri, erano piatti di qualità pessima. Di solito noi quel cibo lo diamo ai maiali. I fornitori del CARA risparmiavano per intascare una buona fetta di soldi che arrivavano alla comunità europea per sfamare i profughi. Denaro che poi veniva investito per comprare cinema, teatri, appartamenti, macchine di lusso, barche, immobili. Uno spaccato davvero inquietante da questa inchiesta denominata Johnny. I fermati, 68, dovranno difendersi da associazione delinquere, estorsione, truffa aggravata, frode in pubbliche forniture. Tra loro i più importanti Leonardo Sacco, responsabile dell'ente che gestisce il centro, ed ex vicepresidente delle Misericordie d'Italia, eccolo qui, e il parroco di Isola, Don Edoardo Scordio. Anche qui sul parroco, se uno gira pagina, Fiorenza Sarzanini racconta pagina 6, il parroco e il gabibbo, così erano definiti il parroco, Don Scordio e l'imprenditore. Oh, tra l'altro c'è un gossip mica male. Secondo un pentito erano sono padre e figlio. E quando dico padre e figlio intendo padre biologico, cioè il prete sarebbe il padre biologico di questo imprenditore. Ma questa è una... come racconta Fiorenza Sarzanini, secondo un pentito sarebbe addirittura il padre biologico di Sacco, il parroco. Il legame tra i due si intreccia con quello che entrambi avrebbero con gli esponenti della Cosca Arena, alla quale assicuravano un'ampia fetta dei guadagni attraverso i contratti di appalto intestati a prestanome, ma anche l'assunzione di parenti e amici. Sacco, l'imprenditore, era definito dai pentiti il gabibbo. Era chiamato così. E... è incredibile. Tra l'altro Cantone, capo dell'anticorruzione, sbotta: non possiamo intervenire su tutto, questa è solo la punta dell'iceberg. Questo è il titolo di pagina 3 del Giorno. A commento di questa notizia, il presidente dell'ANAC è convinto che lo scandalo di Isola Capo Rizzuto non sia un fulmine a ciel sereno né una vicenda unica. Dopo la vergogna di Mafia Capitale, quella del CARA di Mineo, l'intreccio tra 'ndrine calabrese e sottobosco affaristico dimostra come l'interesse delle mafie si sia spostato sull'accoglienza di 200.000 migranti. E anche Avvenire interviene duramente. C'è un prete d'altronde coinvolto. Duri i vescovi calabresi, speculano sui più deboli. Pensate cosa dice l'arcivescovo di Crotone, che ha sospeso il parroco che è stato fermato. Quando sono arrivato nella diocesi, ho da subito conferito sia con Don Edoardo, cioè colui che è stato fermato, sia con i suoi superiori rosminiani, e ho detto loro la necessità di un trasferimento del sacerdote. Avevo avuto sentori. Purtroppo la notizia era nell'aria. Come vescovo, però, non potevo intervenire in altro modo, perché riguardo alle attività incriminate, che sono quelle riferibili alle misericordie, come vescovo non ho responsabilità diretta. Si tratta di un'associazione privata di fedeli. Per questo non ho mai avuto alcun potere per entrare nelle dinamiche amministrative dell'associazione. Ma il vescovo che dice aveva avuto sentori, non potevo fare nulla. Vabbè, lasciamo questa storia. Andiamo invece a questa storia di, se volete, anche questo, di un po' di gossip, perché è il primo caso nel governo. Si sposa Ivan Scalfarotto e si sposa Unione Civile con il fidanzato storico Federico. È la prima volta nel governo, lo scrive oggi Repubblica. Ivan Scalfarotto è in Cina. Si sposa sabato a Milano, celebrerà il rito di unione civile Pier Francesco Maiorino, assessore della giunta di Milano. E tra l'altro Scalfarotto dice non si doveva sapere. Ah, ma io devo dire un gossip, anch'io lo sapevo, io lo sapevo, conoscendo, essendo amico di Ivan, so anche dove festeggiano, ma non ve lo dirò mai, non ve lo dirò mai, sotto tortura sapevo da tempo. Comunque la festa e la testa è a sabato. Non si doveva sapere, dice Ivan Scalfarotto, io e Federico conviviamo da 11 anni, siamo una coppia attempata, è solo la conclusione di un percorso, in fondo ci saranno polemiche al solito, eccetera. Comunque si sposano, si uniscono civilmente, meglio adesso dai, quanto tempo ci ho usato la parola sposano, va bene, allora verrò crocifisso in sala mensa al sole 24 ore alle ore 12:45 per la lapidazione, presentarsi muniti di sassolini o sassoloni alle 12:41. Allora, comunque questa notizia la trovate su Repubblica, mentre sulla Stampa la notizia che mi ha veramente colpito è questa: Riccardo Coletti racconta una vicenda che riguarda l'INPS, che riguarda degli sgravi concessi alle aziende alluvionate nel 1994, soldi che ora lo Stato italiano vuole indietro. Ma come? È tutta una storia molto complicata. L'Unione Europea dice erano aiuti di Stato. Le aziende dicono già dovremmo adesso portare i documenti che attestano i danni subiti nel 94, quando ci furono delle esondazioni del Tanaro, ci furono distruzioni, alluvioni. Dovremmo testimoniare e dimostrare ora i danni subiti nel 94. Se poi dovessimo restituire le cifre che ci furono anticipate dall'INPS come sgravi, perché cosa successe? Successe nel 94, alluvione in Piemonte, ci fu uno sgravio, e quindi le aziende non hanno pagato. Ora l'INPS vuole indietro i soldi e queste aziende dicono restituirle significa a questo punto obbligarci a fallire. È una storia raccontata dalla Stampa. L'INPS rivuole gli sgravi concessi alle aziende alluvionate nel 1994, perché secondo l'Unione Europea è un aiuto di Stato. Va bene, dai, siamo invece all'articolo che mi fa pinzare della giornata, l'articolo da Mani sul Volante. Per carità, allora, mi attirerò molte critiche, come quando si parla dei nostri amici animali, che io adoro. Il mio gattino, la mia gattina Zen, mi aspetta anche oggi. Allora, sono felice per questa coppia di coniugi che ha un'attività, un'azienda Alessandria, che rifornisce VIP di Europa, di Asia, America, Paris Hilton. Perché cosa fanno? Fanno i cappottini in cashmere per i cagnolini e i gattini, e i cricetini, non lo so. Fanno anche i cristalli per far bere magari il cagnolino di Paris Hilton dal cristallo perfetto, perché deve bere dal cristallo, magari lei. E vabbè, niente, io quindi sono felice per loro perché hanno trovato un bel business. E Massimo Delfino racconta sulla Stampa questa storia. Ecco come un'azienda di Alessandria rifornisce VIP di Europa, Asia, America i loro cani. Una sartoria di cappottini e cashmere e cristalli. Non sono arrabbiato per loro, loro sono bravi, sono intelligenti, sono furbi. Sono un pochino più arrabbiato con chi mette il cappottino in cashmere al cane. Sì, sì, si può, si può. Si può. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, ma per cortesia. State ascoltando un programma offerto da Made in Steel. L'acciaio mondiale si incontra a Fiera Milano dal 17 al 19 maggio. Alessandro Milan è un po' il Macron dell'informazione. Mi piacciono questi, poi ci sarà anche il Donald Trump. Forse, dai, mandateci la vostra sigla al 349-238-6666, Macron dell'information. Va bene, è un numero WhatsApp ovviamente per i vostri audio. Allora, dobbiamo parlare di questa sentenza che fa molto discutere, e molti giornali aprono su questa sentenza della Cassazione. La Cassazione ha bocciato l'istanza di un indiano che voleva girare con il coltello dei Sikh. È stato pizzicato così, si è rifiutato, ovviamente, come dire, era stato condannato a 2.000 euro di ammenda dal tribunale di Mantova, perché il 6 marzo 2013 è stato sorpreso a Goito con un coltello di 18 centimetri. E voi direte, insomma, normale. Ma lui si è rifiutato a dire. L'indiano sosteneva che questo coltello era il kirpan, come il turbante, è un simbolo della religione e dunque portarlo per lui costituiva adempimento del dovere religioso. Ebbene, è arrivata la vicenda fino in Cassazione, questa per me è la cosa più incredibile, che la Cassazione si debba pronunciare, ma vabbè, insomma, di fronte a un ricorso fino a questo, e la Cassazione ha stabilito che è essenziale l'obbligo per l'immigrato di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale in cui ha liberamente scelto di inserirsi. È qui che si innescano il dibattito, le polemiche. I migranti rispettino i nostri valori, perché c'è chi dice che devono rispettare non tanto i valori quanto le leggi, che sono una cosa diversa dai valori. I valori sono un qualcosa certamente di opinabile, i valori chi li stabilisce? Comunque Ilaria Sacchettoni racconta pagina 2 del Corriere della Sera, con una sentenza che già divide entusiasti e perplessi, i giudici della Cassazione stabiliscono parametri all'integrazione, la rinuncia da parte degli immigrati ai propri simboli religiosi o culturali se in contrasto con la tutela della sicurezza, e si capisce che un coltello di 18 cm di lama lo è. Respingendo l'istanza di un indiano Sikh a girare col kirpan infilato nella cintura, i togati hanno sottolineato: è intollerabile che l'attaccamento ai propri valori, seppure leciti secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, porti alla violazione cosciente di quelli della società ospitante. E ancora, la società multietnica è una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali confliggenti a seconda delle etnie che la compongono. Specie, dicono, se quegli arcipelaghi sono in contrasto con il bene collettivo della sicurezza pubblica. E così troverete su tutti i giornali delle foto di persone colorate, con le barbe, coi turbanti, coi coltelli. Non vi impressionate, non c'è alcuna invasione. Sono i Sikh che per un giorno conquistano con le loro foto i loro turbanti colorati, spesso di arancione, le prime pagine dei giornali. Il dibattito, intervista a Emma Bonino a pagina 3 di Repubblica, che dice: le nostre leggi sono i confini della tolleranza. La mia profonda convinzione da sempre è che chiunque viva in Italia, sikh, italiano, turista, deve rispettare le leggi italiane, per cui non strumentalizziamo. I migranti devono conformarsi ai valori della società, tutti, italiani, migranti, turisti, devono rispettare le leggi. La legge sulle armi mi pare sia del 75 e vieta di portare il coltello. Punto. Il pragmatismo di Emma Bonino dice tutto. Va bene, trovate anche molto ovviamente ancora del caso Etruria, il caso che tiene banco per quel che riguarda la politica, anche se da parte di Gentiloni c'è il gelo, Gentiloni che è in Cina per parlare di cose molto importanti dal punto di vista economico. Qui la politica si è occupata di One Belt, One Road, cioè la nuova via della seta. Questa è l'unica dichiarazione di Gentiloni, come dire, non mi parlate del caso Etruria qui in Cina, in questa situazione. Passo e chiudo, scrive così Goffredo De Marchis nel suo retroscena su Repubblica, pagina 12. Paolo Gentiloni affronta ancora con il silenzio, tradotto in una risposta evasiva pronunciata nella hall di un albergo di Pechino, la vicenda sollevata dal libro di De Bortoli sui rapporti tra l'ex AD di Unicredit Ghizzoni e Maria Elena Boschi. Ma guardate che oggi la questione non è tanto Banca Etruria, ma si sposta ancora sul caso Consip, perché il Fatto Quotidiano ha una prima pagina che merita di essere approfondita, perché la notizia è abbastanza clamorosa se confermata. Certo, se il Fatto Quotidiano si nasconde sotto Libero, eccolo qua, non lo trovo più, eccolo qua, il Fatto Quotidiano. Consip, la telefonata. C'è un libro di Marco Lillo in uscita, giornalista del Fatto Quotidiano. In questo libro si racconta che il 2 marzo 2017, quindi un paio di mesi fa, Matteo Renzi ha chiamato il papà, che era indagato per la vicenda Consip, E in questa telefonata è finita intercettata. Perché? Perché era intercettato Tiziano Renzi. Nel libro di Marco Lillo, l'intercettazione sulla cena tra il padre dell'ex premier e l'imprenditore Romeo. Cosa succede? Renzi legge su Repubblica quel giorno un'intervista ad Alfredo Mazzei, un'intervista in cui si parla di cene tra il papà di Renzi e l'imprenditore Romeo, e allora Renzi chiama il papà. La telefonata, titolo di pagina 2, Renzi chiamò papà Tiziano, non dire bugie, non ti credo. Questa telefonata, babbo, devi dire tutta la verità ai magistrati, è una telefonata che avviene alla vigilia dell'interrogatorio di Tiziano Renzi in procura. A un certo punto dice non dire, non rivelare di un ricevimento con alcuni imprenditori a cui era presente anche la madre di Matteo, Laura Bovoli. Durante la chiamata, scrive Marco Lillo, emerge chiaramente la sfiducia di Matteo verso il padre. Il figlio teme che lui possa mentire anche a lui, non solo all'Italia e PM. Renzi in quel momento non è più premier, non è deputato, è solo un figlio infuriato col padre che rischia di rovinargli la politica. Non puoi dire che non conosci Mazzei, l'imprenditore, perché lo conosco anche io. Questo è l'inizio della telefonata. Matteo Renzi viene definito terrorizzato dall'interrogatorio che si terrà il giorno dopo a Piazzale Clodio e dice devi ricordarti di tutti gli incontri, dei luoghi, non è più la questione della Madonnina e del giro di merda di Firenze per Medjugorje. Questa è lo sbobinato, secondo il fatto, di quello che Matteo Renzi dice al padre. E Tiziano, il padre, che è devoto alla Madonna, lo ferma, non devi dire così, ma il neo segretario del PD in quel momento se ne frega del santuario, dell'Erzegovina, dei pellegrinaggi, pensa solo alle conseguenze e dice stai distruggendo un'esperienza, devi dire nomi e cognomi, gli intima, è vero che hai fatto una cena con Romeo? E la risposta del padre è sibillina, Tiziano dice di no, le cene se le ricorda, ma i bar no. Cioè Tiziano Renzi nega un incontro ai ristoranti, ma non è altrettanto certo su possibili incontri con l'imprenditore campano in un bar. Vabbè, insomma, è una telefonata, certo, che è terrà banco durante la giornata politica di oggi, perché si parla di un Matteo Renzi, secondo il Fatto Quotidiano, che non ha fiducia in quello che dice il papà. Va bene, caro Mauro Meazza, come vedi ti ho fatto anticipare sempre da questioni paragiudiziarie. Oh, ma sono lusingato, Monsieur le Président, perché vedo che ormai gli ascoltatori così ti trattano, allora anche io cercherò di mostrare più deferenza nei tuoi confronti. Il Macron dell'information. Oh sì, ma Monsieur le Président, allora ti vorrei segnalare sul Sole 24 Ore tutta una serie di cose, ma soprattutto la guida allo statuto del lavoro autonomo, sai che è stato finalmente, dopo lunga attesa nelle aule parlamentari, è diventato legge. Allora, che c'è dentro e che succede? Te lo spiega da oggi Sole 24 Ore, cominciamo dalle questioni che riguardano più i professionisti, le partite IVA, quindi con i nuovi obblighi, le tutele per i ritardati pagamenti, eccetera, eccetera. Domani proseguirà e anche posdomani. Ti voglio poi dire che domani hai da scrivere. Eccola qua. Oh, scusami se ti tratto con tanta confidenza. No, ma figurati. Mi devo un po' abituare al tuo nuovo ruolo. Domani ci sarà il focus consueto del mercoledì dedicato al modello redditi, che una volta si chiamava un modello unico, ma adesso si chiama modello redditi. Grazie. Ma quindi tu sei la nostra, visti i rapporti anche di anagrafici, tu sei la nostra Brigitte, quindi. Vabbè, ma questo presupporrebbe anche un'unione civile tra di noi, che non so, non vorrei mettere proprio in piazza tutto quanto, Monsieur Presidente. Comunque, il modello redditi, importante perché sai che è già stagione di dichiarazioni, tra l'altro sul Sole 24 Ore oggi segnaliamo sono già stati trasmessi più di 300.000 modelli 730, quindi l'Italia si muove per le dichiarazioni, domani il modello redditi con il Sole 24 Ore. Oh, è ripartita l'inflazione, no? È ripartita, è risalita un pochino, sai che sarebbe una buona notizia, ma se tu leggi scrupolosamente come devi imprese e territori vedrai che è un po' un rimbalzino fallace, perché non è veramente trainato da una ripresa dei consumi, ma tutto il dettaglio naturalmente come al solito su Sole 24 Ore. Già ti sei appassionato ad alcuni dettagli della manovrina? Sì. In precedenza di quest'anno nella trasmissione, ma ti voglio dire, si prefigura anche una revisione per le sanzioni della Voluntary Disclosure 2. Ecco. E questo è molto bello, anche perché possiamo riutilizzare l'audio di Angelino sulla volontà di Ma non oggi, perché vedo di là, dall'altra parte del vetro, persone. Peter è ancora smarrito. Assenti. Sì, Peter sta smaltendo qualcosa. Insomma. Diamogli ancora qualche giorno, tanto si andrà avanti per un po'. La manovra ovviamente è in discussione. E le ipotesi di revisione della volontà di scoglio stanno però sulle pagine del Sole 24 Ore. Naturalmente una comunicazione di servizio, qui Radio Fisco, abbiamo il valore del TFR di aprile. Naturalmente poi ti dicevo, essendo martedì, Messie Presidente, abbiamo le condominio. E allora quest'oggi tra le notizie sulla pagina di condominio, quando e perché adeguare, magari al rialzo, il compenso all'amministratore. Caro Brigitte, che bella leggi, notizia. Leggi, caro Presidente, e ci sentiamo domani, naturalmente. Traffico! Ferkam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Ferkam.com vi presenta Alessandro Spal, il cugino neopromosso di Alessandro Milan. Sì. Questo è il filone calcistico che è partito tutto, lo ricordiamo, dal mitico, il migliore di tutti, che per primo lanciò questo filone calcistico, ma che al momento niente, non mi sono pronte oggi, non mi sono vabbè, d'altronde Peter Biscabè riduce la lunata degli alpini, quindi, Alessandro Juve, il cugino crettomane di Alessandro Milan. Vabbè. Allora, per la politica c'è da dire che dobbiamo segnalare anche il fatto che la Lega, dopo la vittoria alle primarie di Salvini, la lite con Bossi che dice così ci andiamo a schiantare, eccetera. Ora tutti guardano a Maroni, che rilascia un'intervista oggi, intervistato da Paolo Colonnello sulla Stampa, pagina 9, dice: la Lega non può stare a destra, io non sono agli ordini di Salvini. C'è l'intervista interessante a pagina 9 della Stampa, e la Lega rischia davvero di implodere. Guardate che il titolo di Libero è proprio questo, La Lega, nella Lega si sbranano. È una situazione certamente all'interno della Lega molto molto esplosiva dal punto di vista politico. Invece... se andiamo a vedere uno sguardo agli esteri, le notizie sono riguardanti la Siria, con le accuse americane, detenuti bruciati nei forni. Guardate che fa solo impressione a leggere solo il titolo di questa accusa pesantissima. Per il Dipartimento di Stato, il carcere di Sednaya in Siria è stato, come dire, convertito, lo dico in maniera brutale, con la creazione anche di un forno crematorio. Immagini che, si era detto ai tempi della Shoah, avremmo detto non mai più, e invece secondo gli americani questo sarebbe in corso in Siria, dove i prigionieri vengono impiccati 50 al giorno, ovviamente gli oppositori del regime di Bashar Assad, e poi cremati per farli sparire. Ovviamente su questo, come dire, sono informazioni del Dipartimento di Stato americano, non è che c'è una conferma indipendente e certa di quello che sta succedendo, ma su tutti i giornali leggete questa vicenda. Però dall'America, in realtà, nella notte, e sicuramente avrà uno sviluppo ulteriore nella giornata di oggi, c'è un'altra notizia che, se confermata, sarebbe questa sì clamorosa. Il Washington Post accusa il presidente americano Trump. E di che cosa? Lo accusa di avere rivelato notizie top secret al ministro degli esteri russo Lavrov la scorsa settimana. Ma questa sarebbe un'accusa davvero incredibile. Da Trump, informazioni top secret ai russi. È l'ultimo sviluppo del Russia Gate, racconta Federico Rampini su Repubblica. È il più clamoroso, il più stabilizzante. L'accusato è Donald Trump in persona. Avrebbe trasmesso informazioni top secret al ministro degli esteri russo e al suo ambasciatore, ma non in campagna elettorale. Si parla di un incontro avvenuto la scorsa settimana alla Casa Bianca. Quindi l'accusa investe il presidente in carica, non il candidato Trump, ma questa notizia bomba che è l'apertura del sito del Washington Post, secondo fonti, funzionari attuali e precedenti, Trump avrebbe rivelato notizie sull'ISIS del livello highly classified, cioè la categoria più elevata di livello di riservatezza, ai russi. Se vero, sarebbe una notizia incredibile. Va bene, c'è tempo solo per la carta costa? Sì, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Guarda quanti articoli qua li faccio vedere, Lorenzo. Sono rimasti fuori dalla rassegna stampa. Tra poco facciamo la rassegna stampa off sul mio sito Facebook, sito pubblico, perché il tempo qui è finito. Allora, c'è Giulia Zonca che racconta per un'intera pagina sulla stampa che quest'anno va di moda e ora è il momento del verde e soprattutto dell'avocado come super frutto dell'anno. Ma poi l'avocado è un frutto? Ma chi se ne frega!